Sie hören jetzt Beispiele von Klangexperimenten mit individueller Klangsteuerung. Gesteuert wurden Tonhöhe, Klangfarbe und Lautstärke. Klangerzeuger sind subharmonische und binäre Frequenzteiler mit unterschiedlicher Ausgangswellenform sowie Rauschgeneratoren. Die Umformung der Klänge erfolgt durch Formantfilter, Iteration, Halbplatte, Ringmodulator, Rhythmisierungseinrichtung und Magnetbandgerät mit veränderbarer Bandgeschwindigkeit. Beispiel 1. Als erstes Beispiel hören Sie subharmonische Tonreihen. Vom Hauptgenerator werden bei festgehaltener Steuerfrequenz subharmonische Teilungsverhältnisse mittels Umschaltung des subharmonischen Frequenzteilers abgeleitet. Es entstehen ganzzahlige Teilungsverhältnisse von 1/2 bis 1/16 der Frequenz des Steuergenerators. Beispiel 2. Frequenztransponierung einer Tonfolge beim Spiel auf den gleichen Tasten innerhalb einer Oktave durch jeweilige Umschaltung der Teilungsverhältnisse eines subharmonischen Frequenzteilers. Thank you. Quelli che abbiamo ascoltato prima erano Echo Plets con il loro Concerto Mix, dove potete trovare appunto questa collaborazione, in realtà insomma è assolutamente inventata, tra appunto Robert Rental e gli stessi Echo Plets, che già insomma citavano Robert Rental in maniera diretta, proprio titolandoli un pezzo dell'album che appunto si chiama Rental, proprio come il nostro Robert Rental, non Thomas, insomma, di fatto insomma sto unendo Thomas Lear e Robert Rental, perché per tanti aspetti insomma furono insieme, e forse può essere anche utile, sintomatico di certi anni Ottanta, che si trasformeranno anche in maniera piuttosto cruenta per gli ascoltatori, chi amava e chi stava dentro insomma questa scena, una scena che ovviamente non era soltanto distaccata dal pubblico, insomma, anzi distruggeva questo concetto e lo faceva diventare movimento. In questo senso anche le avanguardie storiche erano tra le corde dei nostri, anche di Robert Rental e anche di Thomas Lear, appunto, perché i due fecero uscire The Bridge insieme, appunto storico capolavoro dell'Industrial Record del 1979, ma di fatto insomma collaborarono insieme insomma per quei 2 anni insomma abbondanti delle produzioni di Robert Rental, amici e appunto anche grandi collaboratori, grandi inventori. E Thomas Lear avrà un momento di anche piuttosto interessante dopo questa collaborazione intensissima con Rental, che sarà Contradiction, disco di techno pop, anch'esso visionario, molti dei pezzi appunto che accolgono questo disco, ma anche appunto un disco che già dalla titolazione, in effetti poi anche il denudare, lo svelare, la tattica insomma dell'industrial di mettere di fronte in maniera anche chiara, crudele anche, e proprio l'aspetto anche trattato, quindi Contradiction, il titolo del disco di Thomas Lear, ha appunto delle contraddizioni anche legate al techno pop, anche da lui creato e da Robert Rental, come da buona parte insomma della anche di certe cose di Throbbing Gristle, perché no, se pensiamo insomma a 20 Jazz Funk eccetera, e pensiamo insomma anche per molti aspetti al techno pop nascente o normal con Warm Leatherhead della Mute. Tra l'altro Normal collaborerà anche con Robert Rental proprio per un live, una delle chicchette, delle poche purtroppo fatte uscire appunto da Rental. E Thomas Lear, dopo Contradiction, disco appunto contraddittorio ma anche decisamente interessante, poi si darà un techno pop anche e una dance music di effetto anche svilente, appunto, se addirittura non addirittura crudele, ma non in senso industrial, ma così come tradimento anche rispetto ai primi momenti eccezionali di sperimentazione con Rental, ma anche appunto da solo con Contradiction, dandosi anche una dance così molto, molto in colore per tanti versi, e poi anche un progetto che poteva essere anche interessante nel pop, come The Act insieme all'ex Propaganda, che però insomma lascia il tempo che trova poi dentro appunto i meandri di certo pop che si voleva insomma così alterato, come quello della ZTT, dove Zhang Tuntum, tra l'altro non a caso, ricordi e memory del futurista Marinetti, dove tentò insomma lì era di popizzare ulteriormente la materia sua sonora, ma insomma i risultati furono sì per un momento brillanti, ma poi col passare degli anni è veramente affievoliti e sbiaditi, soprattutto queste brillantezze decisamente anche sbiadite, e quindi anche proprio un viatico che si può capire attraverso i lavori di Rental, che invece rispetto al suo collaboratore Thomas Lear e dal 1980 poi si chiuderà in un silenzio anche scontroso, non volendo sapere più niente, e qua poi potremo anche tirare fuori insomma mitologie rock da Barrett, personaggi insomma che scappano, che fuggono, Fred Neil, e che rifuggono la loro stessa gloria. Se pensiamo insomma che Rental poteva in effetti poi raccogliere anche molto, visto che l'ultimo 45 giri Double Art, che tra l'altro chiuderà questa sera, 451 frammenti sonori, splendido pezzo, con anche momenti che da lì a pochissimo diventeranno pop anche venduto, e quindi Rental poteva tranquillamente incassare, invece si rifugia così scontrosamente in un silenzio che dura per 20 anni, quanto poi il momento della morte e della tragica morte nel 2000, ma un ricordo indelebile, e forse proprio per questo i Coplets e poi non l'avevo ancora detto, abbiamo ascoltato Biosphere, gli dedicano proprio direttamente, insomma, una filiazione, i couplets assolutamente diretta. Biosphere, forse nell'ultimo periodo, dove scoprono anche momenti più legati, poi è un passato che riguarda gli stessi Biosphere. Vecchio progetto era Belcanto, partiva da un'elettronica vicina a certe sonorità wave, magari con anche tutto l'ascolto legato a 4D e soprattutto a Dead Can Dance. Ma se andate, insomma, a trovare Belcanto, progetto prima di Biosphere, troverete sicuramente dei riferimenti a questi primi esperimenti di post-punk e di elettronica, do it yourself, di industrial, eccetera eccetera eccetera, insomma, dentro sonorità che ovviamente e chiaramente anche si fanno altro e sperimentano il futuro, il the future, come la storica formazione industrial di Sheffield. Altro discorso, insomma, inglese, che parallelamente a quel che succedeva in quel di Londra succedeva appunto per la capitale dell'Inghilterra. Per Sheffield c'era parallelamente un suono primigenio, forse ancora più industriale, per dismissione, insomma, della grande industria inglese, appunto, della fine degli anni 70, e quindi generazioni, insomma, di giovani che non, di fatto non potevano più lavorare nelle fabbriche, non volevano soprattutto più ripercorrere, insomma, gli incubi delle catene di montaggio dei genitori, incubi che invece sono presenti dentro Mental Detention, cassetta veramente vergognosamente, alziamo le mani, non editata da, non più, insomma, dal 1979, gioiello incredibile, però con un ascolto, insomma, che sentirete non particolarmente fedele, ma forse anche per questo, insomma, mantiene non soltanto il suo fascino, ma anche quell'esperimento su un suono crudele, voluto anche da Robert Rental, qua completamente in solo, senza Thomas Lear, senza Daniel Miller, insomma, senza collaboratori. È uno studio casalingo assolutamente incredibile, edito soltanto in forma privata, in cassetta, che veramente, cioè, con tante ristampe che vengono fatte, non si capisce ancora perché debba rimanere dentro i cassetti, e soprattutto soltanto su una cassetta, che è decisamente introvabile. A questo punto, per fortuna, insomma, che la rete permette di rintracciare materiali di incredibile valore, non solo storico, ma anche per quello che può essere, insomma, l'esperimento ancora futuro, legato a un'attitudine assolutamente geniale, che è appunto quella di Robert Rental, anche di Mental Detection, che andiamo a prendere con un bel po' di musica tratta quasi in maniera inedita, radiofonica perlomeno, da questa storica cassetta, storica, insomma, si fa per dire, misconosciuta e comunque assolutamente eccezionale, di Robert Rental. Thank you. never mind the machinery. What about the stuff this lot uses? The raw material that will change our futures like you would never believe. Information. Not the facts. It's too late for that. What do you do with the facts? Because there, you're into probability theory, choosing one of the alternate futures and actually making it happen. And how does the man in the street get involved in that game? Thank you. E se abbiamo così messo i couplets e Biosphere per citare anche due differenti modi di omaggiare e di essere anche per certi aspetti, soprattutto per i couplets devoti a Robert Rental, questo grande, assolutamente geniale personaggio e anche figura insomma di riferimento per senso e coraggio nella sperimentazione, nel lanciarsi insomma nell'ardito e nell'ignoto musicale, insomma, tanto per citare anche le avanguardie storiche. E, sì, abbiamo voluto anche inserire forse l'hype più così notevole delle elettroniche altre in questi ultimi tempi, Silent Servant, anch'essi insomma devoti e l'abbiamo sentiti appunto anche decisamente ossequiosi al verbo di Robert Rental e non soltanto per questo insomma rimangono fermi, anzi proprio il recupero di questa e di queste attitudini portano lontano e lo stanno appunto dicendo, suonando i couplets Silent Server e continuano a farlo magari con ispirazione diversa anche Biosphere. Vi saluto qua, vi lascio a Double Earth, pezzo che conclude anche la carriera di Robert Rental nel 1980, pezzo che dire strepitoso è poco, ma stasera insomma non voglio usare troppi aggettivi anche perché siamo arrivati alla fine. E ennesimo insomma omaggio a Rental, a questo personaggio che lascia una scia veramente forte e lucente nel cielo stellato, potremmo dire, se non fossero anche musiche per tanti versi legate all'incubo, ma insomma parliamo di una stella nera, di una dark star che insomma spero insomma avremo tra poco tempo anche modo di ascoltare rieditato magari in qualche cofanetto, magari, che ne so, Vinyl on Demand. Boh, vabbè, lanciamo così. Max Macchia vi saluta, vi rimanda a mercoledì prossimo e ancora qualche minuto di sogno rentaliano. Double Earth. Thank you.